Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze carissimi e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovani. Chi vi parla come sempre è Don Leonardo Maria Pompei, che a tutti dà il benvenuto. Riprendendo la nostra conversazione da dove l'abbiamo lasciata nella puntata precedente, che ricorderete, è passato un pochino di tempo. E stavamo passando in rassegna alcuni brani biblici, soprattutto del Nuovo Testamento, che attestano la verità di fede che i peccati impuri costituiscono un grave peccato contro il sesto comandamento, no? Se vi ricordate, abbiamo scelto, diciamo, di intraprendere questo percorso perché vi raccontavo che non pochi oppositori di questa verità di fede si appellano al fatto che a loro detta la Sacra Scrittura non sarebbe così chiara e così esplicita su questo argomento. Quindi il discorso è questo qui. I peccati impuri se li sono inventati gli uomini di Chiesa oppure la Chiesa stessa, ma non hanno nessun fondamento biblico. Quindi se io sono innamorato non sta scritto da nessuna parte che debba astenermi da tante cose e non posso fare quello che voglio. Io chiaramente non vi rileggo tutto ciò che abbiamo già visto la volta scorsa e che già esplicitamente, però questo sì, abbiamo visto come sono condannati nel Nuovo Testamento esplicitamente i cosiddetti rapporti prematrimoniali in senso stretto, vi ricorderete i brani sulla fornicazione, ma anche gli atti impuri intesi in senso un pochino più largo, quindi non soltanto i contatti, diciamo, proprio sessuali in senso stretto, che sarebbero quelli posti in essere con quegli atti che sono idonei alla trasmissione della vita, ma anche, diciamo, meno di questo, ma comunque che abbia a che fare con l'attività sessuale. San Paolo, abbiamo visto la volta scorsa, che distingue chiaramente tra fornicazione, tra impudicizia e poi impurità. Quindi abbiamo già visto che l'impudicizia ha a che fare con le offese al pudore, quindi anche con l'esibizionismo, quindi con l'esposizione, come dire, finalizzata alla provocazione, diciamo così, dei propri attributi corporali che hanno più strettamente a che fare, diciamo così, con il mondo tra virgolette erotico, e mentre l'impurità è questo macrogenere, infatti il sesto comandamento suona come non commettere atti impuri, non soltanto non commettere adulterio, non soltanto non fornicare, perché l'impurità è un genere più ampio in cui sono contenuti chiaramente il peccato di fornicazione, come vedremo per esempio di adulterio, ma anche altri, quindi è diciamo il genere grande, che contiene tutte poi le singole specie dei peccati impuri, come poi vedremo nel corso della trattazione. Noi possiamo riprendere da qui, perché non avevo finito, questo lo ricordo benissimo, perché c'è ancora qualcosa da andare a scandagliare. Possiamo riprendere dalla lettera di San Paolo, Apostolo ai Colossesi, per esempio, che mi sembra che non abbiamo presentato, capitolo 3, versetti 5 e 6, dove l'Apostolo dice queste testuali parole: mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra, fornicazione, impurità, passioni, termine nuovo che diciamo neanche troppo, abbiamo già visto nella prima lettera ai Tessalonicesi, desideri cattivi, questo è nuovo veramente però, e quell'avarizia insaziabile che è idolatria. Attenzione all'espressione che adopera, cose tutte che attirano l'ira di Dio su coloro che disobbediscono. Che su questo passaggio due piccole notazioni. Ecco, dopo aver ribadito la distinzione tra fornicazione, impurità e quest'altro termine particolare, passioni, perché passione significa un impulso di tipo sessuale che però sia dalla persona consentita, d'accordo? Perché noi i nostri impulsi, capite tutti quanti che non siamo padroni perfettamente, così come i pensieri. Io non sono padrone di quello farmi venire o non farmi venire un impulso, specialmente se sono provocato. Io non sono padrone di farmi venire o di non farmi venire un pensiero. Adesso non è il caso di approfondire questa tematica, no? E tempo fa feci degli incontri di catechesi che si trovano in giro anche sicuramente sul sito della parrocchia, forse anche su YouTube, adesso non mi ricordo, comunque erano quelli dedicati alla direzione spirituale in cui per esempio spiegavo quando è che un pensiero cattivo diventa peccato e a volte anche peccato mortale. Sulla scia di Sant'Alfonso Maria dei Liguori che insegnava che non sono peccati i mali pensieri, ma sono peccati i mali consensi. Noi non abbiamo il potere di frenare l'attività frenetica della nostra immaginazione, che Santa Teresa d'Avila chiamava la pazza della casa. Noi possiamo semplicemente difenderci quando viene un pensieraccio, per quanto questo mi turbi e mi dia fastidio, io posso con la volontà riconoscerlo come cattivo, quindi sforzarmi di respingerlo, e anche se continua aleggiarmi nella mente fino a quando io non lo assecondo, non solo che non ho fatto peccato, ma forse ho fatto anche un grande atto di virtù, forse anche eroica, resistendo alle suggestioni suggerite da questo cattivo pensiero. E simile discorso vale per le passioni, quindi la passione in questo contesto è un impulso sessuale che non dobbiamo meravigliarci, che tutti hanno. Io racconto sempre anche ai giovanotti e anche alle persone che fanno vita interiore, specialmente nei periodi in cui per grazia di Dio godono, tra virgolette, della cosiddetta pace dei sensi, gli dico stai attento o stai attenta, perché questa è la quiete che precede la tempesta, perché nessuno di noi, fino a quando in questo mondo, ma nessuno, dico proprio nessuno, ragazzi e ragazze, quindi dicendo nessuno, dico proprio nessuno, può ritenersi totalmente esente appunto dall'avvertire gli impulsi di tipo sessuale. È diverso quando questo impulso viene assecondato. Questo a volte può produrre una lotta terribile anche per le reazioni che vengono poi vissute, no? Questo sia dai maschietti che dalle femminucce. Però San Francesco d'Assisi, stiamo parlando da una radio francescana, ecco, tra l'altro di persone che amano San Francesco e che si sforzano di seguirne le orme anche nelle grandi austerità, insomma, nelle grandi fedeltà alla lettera del Vangelo poste in essere dal Santo di Assisi. Ma San Francesco, per almeno due volte, sono attestati dalle fonti francescane, che ebbe a lottare quasi fino al sangue contro la tentazione impura e contro le passioni. Tanto è vero che se uno va alla Porziunque tuttora oggi trova un bel roseto che però una volta era un roveto, quindi una volta non c'erano le rose, quindi i fiori con le spine, ma c'erano solo le spine, e lì si gettò generosamente il santo quando un giorno era talmente tanto in preda alle passioni, quindi agli impulsi che comportano in un maschietto figlio di Adamo delle reazioni a livello corporale, che non sapendo come fare per resistere, non ce la faceva più, si è buttato lì in mezzo. E non era la prima volta, e non sarebbe stata l'unica volta, scusate, perché quando, durante il periodo in cui soggiornò alla Verna, sempre le fonti ci tramandano, d'inverno, con la neve, un freddo atroce, terribile. Già lui non è che era molto generoso, insomma, nel coprire il proprio corpo, dato le vesti che portava, insomma, ma per resistere ad un impulso si tolse quegli stracci che c'aveva addosso e si rotolò nudo dentro la neve. San Francesco. Io penso che nessuno di noi sia più grande di San Francesco. Quindi, se San Francesco ha vissuto questo, non fu il primo, un episodio analogo, tale e quale identico al primo che ho raccontato, lo visse San Benedetto, perché a Subiaco, non molto lontano dalle parti da cui vi sto parlando, c'è lo stesso al Sacro Speco, un roseto, ecco, che un tempo era roveto, perché nonostante che San Benedetto fosse immerso nell'orazione, nell'unione con Dio, nella solitudine, non era esente da queste tentazioni. Ma c'è il passo famoso, insomma, della seconda lettera ai Corinzi, se non ricordo male, dove San Paolo stesso racconta di questo passo misterioso. Gli esegeti sono divisi sul significato da attribuirgli, però la tradizione da Sant'Agostino in poi l'ha sempre interpretata come tentazione sessuale, quando dice: mi è stato mandato un messo di Satana, una spina nella carne incaricata di schiaffeggiarmi. Questo stimulus carnis in latino, Sant'Agostino non aveva nessun dubbio nel dire che questa era una tentazione impura. Quindi, tentazione impura che non rimaneva a livello di pensiero prosaico e platonico, ma che mortificava l'apostolo con le classiche reazioni, tipicamente maschili, che vanno combattute, che ci può fare niente, non ci può fare. Ecco, quindi, nel momento in cui tu assecondi una passione del genere, o anche commetti peccato, quindi ti complica la vita. Stessa cosa, San Paolo parla di desideri cattivi. Il desiderio cattivo è sempre un desiderio consentito, cioè un desiderio è cattivo ed è peccato mortale quando viene consentito. Cioè, adesso vi faccio un esempio, chiaramente usando un linguaggio adatto e consono, no? Generalmente questi desideri cattivi non sono accompagnati nella nostra mente da un linguaggio troppo signorile e troppo forbito. Però se io vedo una bella signorina e penso, consentendo questo pensiero, mi piacerebbe tanto questa sera invitarla nella mia cara dimora ed intrattenermi candidamente con lei, sto scherzando, no? Quindi sto facendo una caricatura di un pensiero che compare con modalità molto più violente e con tinte molto più volgari. Ecco, se questa cosa è un mi balena per la mente, diciamo così, mi attraversa la mente, io dico: ma che stai a dire? Cioè, levatelo dalla testa, ho vinto una tentazione. Ma se io dico: no, no, no, magari, guarda, mi piacerebbe proprio adesso, mo quasi quasi lo faccio, e ho avuto questo desiderio impuro, cattivo, ho commesso peccato mortale. Lo si capisce dal fatto che San Paolo usa l'espressione forte, cose tutte che attirano l'ira di Dio su coloro che disobbediscono. Allora, attenzione anche a questa, cioè, noi non dobbiamo dimenticare che, pur essendo, l'ho detto tante volte, verissimo, che il primo e il più grande attributo di Dio è il suo amore e la sua misericordia, ecco. Quando l'amore e la misericordia di Dio trovano chiusura, ostacolo, durezza, durezza impenitente nel cuore dell'uomo, ecco, come disse Gesù a Santa Faustina, con un linguaggio un po' meno forse violento: chi non vuole passare attraverso la porta della mia misericordia dovrà passare attraverso la porta della mia giustizia. La porta della mia misericordia è sempre aperta, quella della mia giustizia la apro quando sono costretto, ma se sono costretto la apro. Quindi noi non dobbiamo, come dire, crogiolarci in una falsa, tante volte ne ho parlato da tutte le parti, insomma anche in queste sedi, e ingannevole idea della misericordia di Dio, tale che dice: vabbè, tanto che gli fa, il Signore capisce, sono un essere umano, insomma, quindi sarà mica la fine del mondo. Ecco, cose tutte che attirano l'ira di Dio su coloro che disobbediscono. È una frase di San Paolo, non è una frase mia. Non è una frase pronunciata da qualche severo predicatore per incutere terrore negli ascoltatori. Anche Gesù, una volta nel Vangelo di San Giovanni, usa questa espressione: chi non obbedisce al figlio, usa una frase, chi non obbedisce al figlio, se non mi ricordo cosa dice, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Si trova nel Vangelo di San Giovanni, adesso non ricordo, ahimè, la citazione precisa, ma si trova, quindi. Teniamo sempre presente la visione cattolica ed equilibrata delle verità di fede, caratterizzata sempre dalla logica dell'et et. Non è che affermare una cosa di Dio vuol dire sempre negare ciò che a noi sembra il suo esatto contrario, perché molte volte non si tratta di due realtà contrarie, si tratta di due facce della stessa medaglia, d'accordo? Per cui l'anteriore, quindi. E c'è anche il posteriore, c'è il davanti e c'è il di dietro. Ecco. Sarebbe falso e assolutamente tendenzioso affermare uno e negando l'altro. E questo è il principio, ricordate sempre, di ogni eresia. Aeresis in greco significa scelta faziosa, cioè di due realtà arbitrariamente una ne tengo e l'altra la butto, no? Quindi vi ricordate anche qui, come ci ricorda il giustizio, ci sono i primi due peccati contro lo Spirito Santo. Uno, la disperazione della salvezza, che si pensa che Dio è così giusto da non poter usare misericordia se l'ho fatto troppo grande. E l'altra è la presunzione di salvarsi senza meriti, che si pensa che Dio è così misericordioso e qualunque cosa faccio io tanto vado in paradiso lo stesso. Sono false sia l'una che l'altra. Ok, andiamo avanti e abbiamo ancora un paio, due, tre, un paio di brani principali, Poi ce ne sono anche altri che però forse non è il caso di approfondire tutti perché questo è quanto basta al nostro scopo, quindi che di fondare biblicamente il discorso sui peccati impuri e anche mettere a confronto chiunque voglia dialogare. E che non abbia già deciso, che se lui si è messo in testa che, Dio non, che secondo Dio non c'è niente di male, quindi fa come gli pare. Uno può, è liberissimo di fare una cosa di questo genere, però Dio ha parlato anzitutto nella sua parola, e quindi non è che Dio le cose non le dice. Nella Sacra Scrittura noi dobbiamo sempre ricordare che in realtà è vero che c'è scritto tutto, quindi non è che Lutero ci avesse tutti i torti, non sempre c'è scritto tutto in maniera chiara, perché questo poi è il compito del Magistero, delle volte ci sono scritte delle cose in maniera oscura, in maniera, non so, in maniera non esplicitata, non chiara, quindi bisogna fare un'operazione interpretativa per andarla a scovare, in un certo senso a trovare, però su alcune questioni, come vedete, più chiaro di così non potrebbe essere, no? Nella lettera agli Efesini, altro tassello, San Paolo usa queste espressioni: quanto alla fornicazione e ogni specie di impurità, vedete, ritorno al termine generico, o cupidigia, neppure se ne parli tra di voi come si dice ai santi, lo stesso si dica per le volgarità, insulsaggini e trivialità. Cose tutte sconvenienti, si rendono invece azione di grazia perché sappiatelo che nessun fornicatore o impuro o avaro, che è roba da idolatri, avrà parte al regno di Cristo e di Dio. Qui, anziché parlare di ira di Dio, dice che chi fa queste cose non avrà parte al regno di Cristo e di Dio, diciamo, terminologia meno terrorizzante, d'accordo? Ma il senso è esattamente identico, lo stesso. C'era buon'anima di mia mamma, non so se si arrabbiano le suore se racconto una mini barzelletta santa, no? Qui dalle nostre parti c'è un paese, è meglio che non dico il nome perché se dopo ci ascolta qualcuno da quelle parti rimane vittima di amor proprio e poi non ascolta più le cose sante per colpa di questo. Comunque c'è un paese noto per essere un pochettino la patria, diciamo così, degli asinelli a scuola. Allora, durante una lezione, un giorno la maestra chiama sto ragazzo per l'interrogazione, no? Dice, allora dice, vieni che ti devo interrogare. Dice, non posso, professore, perché ho caduto. Dice, non mi reggo in piedi. Dice, come ho caduto? Non si dice ho caduto, si dice sono caduto. Cadere è un verbo intransitivo, quindi non ha il verbo avere, ma il verbo essere. Brutto somaro, non capisci niente questo, ascolta tutta quanta sta cosa. Allora, adesso poi che sei caduto o non sei caduto non mi importa niente, vieni all'interrogazione. E quello è questo, dopo tutta la spiegazione risponde, ah ma t'ho appena detto, non posso venire perché ho caduto. Dice, ah ancora ho caduto, t'ho appena detto che non si dice ho caduto, si dice sono caduto. E questo dice, ah professore, ah ma dice, so caduto, ho caduto, ma sempre per terra ho andato. Gli rispondo in questo modo, è una barzelletta un po' semplice, diciamo così, quelle che si possono raccontare, per far capire come. E questo gli dice: senti, te lo dico correttamente, te lo dico scorrettamente. A proposito, il Papa stamattina ha detto che non gli piace il parlare politicamente corretto. Meno male, meno male, meno male. Quindi gli piace quindi fuggire ogni sorta di ipocrisia, specialmente su alcune cose bisogna dire la verità. Ho sentito oggi a ora di pranzo, ho detto, si dice la verità, punto e basta. Certamente la verità va sempre unita alla carità, però non va mai, come dire, alterata, edulcorata, minimizzata, oppure, come dire, nascosta o occultata sotto le maglie del non voler turbare la coscienza del prossimo. Ecco, perché stanno dei turbamenti che sono sommamente salutari, quindi sono auspicabili, quindi non soltanto non peccaminosi, ma viva Dio magari che molte coscienze fossero realmente turbate da qualche santo discorso che le aiuti ad entrare nella verità. Quindi qui, attenzione, c'è una cosa nuova, che compaiono i discorsi impuri, volgarità e trivialità, parla San Paolo. Quindi cominciamo un attimo a vedere, no? Che alla luce di questa rassegna già abbiamo visto che ci sono degli atti che non si devono commettere, dei pensieri e dei desideri che possono essere balordi, e qui compaiono dei discorsi che possono essere balordi. Ecco, diciamo che poi a proposito delle passioni o dei desideri cattivi, diciamo che spunta all'orizzonte anche un'altra modalità fondamentale di peccato, anche a proposito di quando San Paolo parlava dell'impudicizia, quindi dell'esposizione ostentata e provocante del proprio corpo. Chiaramente in tutte queste dinamiche si fa riferimento al fatto che gli occhi possono diventare chiaramente una fonte, una via, una finestra per il peccato. Perché certamente che dipende dalla volontà, ma la finestra dell'anima sono gli occhi. Quindi certamente un pensiero impuro può anche venirmi per una tentazione diretta da parte del demonio, diciamo così, oppure per una operazione meramente fantasiosa. Ecco. Ma molte altre volte sarò io che mi sono già fatto venire questo pensiero con gli occhi. E Gesù ne parla nel Vangelo, no? Poi lo vedremo, chi guarda una donna per desiderarla. Quindi fa riferimento alla vista, al guardare, ha già commesso con lei adulterio nel suo cuore. Anche qui un conto è guardare, dice, mi ha detto più di qualche volta un santo prete, un conto è vedere. Noi non possiamo tapparci gli occhi, cioè nel senso impedire che passino davanti agli occhi nostri a volte delle immagini, ahimè, che sono tutt'altro che raccomandabili. Tuttavia, una volta che l'immagine poco raccomandabile ci è passata davanti agli occhi, io posso decidere cosa farci, cioè se continuarla a guardare oppure se guardare ad altro, concentrarmi per pensare completamente ad altro. Questo io lo posso e lo devo fare. Quindi se mi capita un giornalaccio tra le mani, giro immediatamente pagina. Tra l'altro, se sono madre o padre di famiglia e ce l'ho dentro casa, o lo butto quel giornale oppure quella pagina la elimino, perché se c'è un bambino piccolo e se lo va a vedere, ecco, dipende dalla mia imprudenza, no? Ecco, stessa cosa, se sto vedendo una trasmissione dove compaiono alcune cose, cambio canale. Non continuo a guardare una cosa che mi esponga a rischi di questo genere, no? Meno che mai, ancora una volta, se sono in presenza di persone piccole, oppure se mi capita che sono in un ambiente a scuola, stanno facendo vedere un film, oppure mi trovo a un cinema, pensavo di essere andato a vedere un film tranquillo e poi mi ritrovo dinanzi a una serie di cose. Gli occhi sono una finestra, no? Quindi quando noi non vogliamo vedere qualcosa che accade fuori di casa nostra, che cosa facciamo? Si chiude la finestra. Gli occhi, anche quando ci troviamo in diretta, possono comunque essere chiusi, no? Come dice il Salmo che recitiamo nella liturgia delle ore, che il re saggio chiude gli occhi per non vedere il male. Quindi io posso chiudere gli occhi, diciamo così, allibito perché sto vedendo una scena raccapricciante, una scena violenta, una scena di sangue, cose di questo genere che mi impressiona, ma posso e devo chiudere gli occhi e sto vedendo una scena che è idonea a macchiare attraverso la finestra degli occhi la mia anima, e quindi gli occhi si chiudono e è finito il problema. Infine, ma giusto per, ci sono anche dei passi dalle lettere cattoliche, ce ne sono alcuni dalle lettere di San Pietro e una dalla lettera di San Giuda Apostolo. Pensavo di proporvi come ultima rassegna biblica questo di San Giuda, perché questo San Giuda, poverino, col fatto che è omonimo di Giuda Iscariota, del grande traditore, poverino, c'è anche più di qualcuno che neanche sa che esiste, insomma, questo è San Giuda Taddeo, Giuda Santo, parla di discorsi tra l'altro molto molto attuali, ecco, e dice: guardate, ora io voglio ricordare a voi che già conoscete tutte queste cose, che il Signore, dopo aver salvato il popolo, tra parentesi, di Israele dalla terra d'Egitto, fece perire in seguito quelli che non vollero credere, così Sodoma e Gomorra e le città vicine che si sono abbandonate all'impudicizia allo stesso modo, attenzione al termine che usa, e sono andate dietro a vizi contro natura, ripeto e sottolineo, stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno. Ora, voi sapete tutti quanti che c'è una perversione sessuale, almeno così si chiama in morale cattolica. Una volta si chiamava così anche nei manuali di psichiatria, ma adesso il politicamente corretto ha ceduto purtroppo il terreno, anzi ha guadagnato il terreno defenestrando questa ipotesi. Sodoma e Gomorra erano città dove si compivano dei peccati che si chiamano in teologia morale peccati impuri contro natura. Mo mi dispiace perché queste cose sono un pochino scabrose, mi urta anche un po' usare questo vocabolario, ma da sodoma deriva sodomia o deriva sodomizzazione, che indica un tipo di rapporto sessuale contro natura che può essere posto in essere sia tra persone di sesso diverso, ed è un vizio contro natura anche quando è fatto tra persone di sesso diverso, spero che capiate perché non posso che recentemente scendere in particolare né fare disegni. Ma pure indica il rapporto che ordinariamente viene compiuto da due persone dello stesso sesso di sesso maschile. E qui San Giuda non usa dei mezzi termini, stanno sprofondando nell'inferno, stanno subendo le pene di un fuoco eterno per essere andati dietro a vizi contro natura. Quindi noi dobbiamo avere il peccato impuro contro natura, poi lo vedremo, è uno di quelli che grida vendetta al cospetto di Dio. Noi oggi non possiamo non dire una cosa di questo genere, fermo restando la distinzione sempre doverosa tra colpa e colpevole, tra peccato e peccatore, tra errore e tra errante, tutto quello che volete, per cui non si giudica, non si condanna a priori la persona, però si stigmatizza il suo comportamento. Dobbiamo dirle alcune cose, dato che adesso pare che anche illustri politici di certe aree, un tempo diciamo così abbastanza vicine al cattolicesimo, stiano dando degli inquietanti, ecco, segnali di apertura su tematiche in cui almeno un cattolico, io posso anche accettare il fatto che un laico, un laicista, a cui non gliene importa niente, che è uno che ha una visione di vita completamente, come dire, sartriana, cioè l'unica cosa che conta è il valore supremo, è la libertà della persona. La persona è libera di fare quello che gli pare, lo Stato non ha altro compito che difendere questa sua libertà. Questa è una visione di pensiero sbagliata, ovviamente, ma se tu la pensi in questo modo è ovvio che puoi essere tranquillamente favorevole, per esempio, ai matrimoni omosessuali. Perché? Perché se questa è la verità, tu sei libero, nessuno può sindacare l'oggetto della tua libertà, basta che tu non vai a ledere direttamente qualche diritto di un'altra persona e quindi devi essere messo dallo Stato in condizione di fare quello che vuoi. Questa è una visione sommamente contraria alla verità, ma è una visione che oggi è in auge. Ora, che questa, diciamo, la sposino alcuni politici, uomini pubblici che fanno professione aperta di laicismo e di ateismo è normale, ma noi dobbiamo combatterla però questa cosa qui. E non è che combattendola non vogliamo bene o non rispettiamo quelle persone. Noi sappiamo che proprio combattendo questa battaglia, come dire, facciamo il vero bene di quelle persone, perché certamente nessuno potrà costringerle. Privandole, neanche Dio lo fa, privandole della loro libertà di fare quello che vogliono, fermo restando che poi se ne assumano le responsabilità davanti al Padre Eterno, ma io un conto che gli do una mano e l'aiuto, un conto che gli dico, io la mano l'aiuto non te lo do, certamente poi la vita è la tua, fai come vuoi, è diverso. E noi sappiamo che aiutare chi sta sbagliando non è dargli il permesso di sbagliare, o addirittura dirgli bravo, ma di provare a dissuaderlo, fermo restando, che è quello che fa il Padre Eterno con noi, cioè i 10 comandamenti ce li ha dati, però non è che ci sta dietro con il fucile spianato e con la carabina seduta a stante che appena ne trasgredisco uno mi spara immediatamente, o mi obbliga o mi coarta. Certamente tutti quanti passeremo per il giudizio particolare, dovremo rendere conto a Dio di quello che abbiamo fatto, ma dopo, quindi abbiamo un tempo in cui liberamente e persuasi e mossi Attraverso la conoscenza principalmente della verità abbiamo modo di convertirci, di riconoscere il bene e di agire di conseguenza. Facciamo la nostra piccola consueta pausa, ecco, rivolti alla Madonna, sono le 5 e qualche, un minuto, 2 minuti, l'ora in cui apparve Maria a Santa Caterina Labourée, l'apparizione principale che gli devita la medaglia miracolosa, di cui anche i nostri cari gestori, tra virgolette, titolari della radio, sono molto devoti e quindi recitiamo in ringraziamento un'Ave Maria alla Madonna, anche per staccare un attimo questa nostra conversazione. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ok, quindi con questa, diciamo, ultima carrellata biblica, penso che possiamo voltare pagina e cominciare a passare, diciamo così, ad un'analisi un pochino più, tra virgolette, sistematica dei peccati impuri. Anche questo ci prenderà più di qualche puntata. L'importante per ora era comprendere che la materia dell'impurità era biblicamente fondata, quindi rientra esplicitamente, quindi a pieno titolo, tra ciò che è insegnato senza neanche troppi sottintesi dalla sacra pagina, cioè dalla parola di Dio, su cui poi l'insegnamento e la riflessione di santi, dottori e della Chiesa ha contribuito nel corso del tempo a distinguere una serie di specie, di fattispecie peccaminose che dobbiamo conoscere e da cui dobbiamo guardarci se vogliamo rimanere in grazia di Dio. Ricordiamo sempre ciò che abbiamo già più di qualche volta accennato, che è che in re venerea non datur parvitas materie. Quindi su questo argomento purtroppo appena uno, cioè ci si muove in un terreno minato, d'accordo? Oppure come dire, zona ad alto tasso di infiammabilità, quindi basta una scintilla per far scoppiare un incendio devastante. Ecco, quindi l'attenzione, la prudenza su questa materia non è mai troppo, anche queste cose, ahimè, oggi sembrano abbastanza dimenticate, almeno a livello di prassi, comunque speriamo bene. Allora, voltiamo quindi questa pagina e addentrandoci quindi nell'analisi delle singole fattispecie dei peccati impuri. E prima di scendere nei singoli atti, io amo, come dire, suddividere, allora abbiamo il genere, il macro genere che è peccati impuri. Poi diciamo che c'è un genere un pochino più prossimo, un po' più piccolo, di che tipi di impurità si parla? Allora, alcune forme di impurità sono per esempio direttamente contrarie alla santità del matrimonio. Ci sono alcuni peccati impuri che sono tali perché minano al cuore, colpiscono al cuore la santità del matrimonio, perché dentro questa materia non c'è soltanto la legge morale, c'è anche di mezzo un sacramento, che è appunto il sacramento del matrimonio, sacramento che può venire profanato attraverso dei comportamenti che sono adesso direttamente contrari, quindi che a fianco all'intrinseca malizia della impurità aggiungono il fatto che vanno a distruggere e a minare la santità del sacramento del matrimonio. Primo genere. Secondo, altri colpiscono la vita come frutto naturale dell'amore umano tra un uomo e una donna. Cioè ci sono dei peccati impuri che sono tali perché impediscono che dalla relazione naturale tra uomo e donna nasca una vita, come dice Paolo VI nell'Umane Vitae, o compiuti prima, quindi in previsione dell'atto io mi premunisco. E assumendo, per ora rimaniamo sul generico degli accorgimenti, che poi quando l'atto si compirà mi impediranno di mettere al mondo una vita, oppure in sede di compimento dell'atto, oppure dopo, intervenendo sulle sue naturali conseguenze nell'immediato, secondo genere. Il terzo genere, ecco, è costituito da quei peccati impuri che vanno contro la legge naturale, cioè la legge naturale che, no, che per noi cristiani e cattolici oggi il concetto di legge naturale qui, perdonatemi, vi faccio anche riferimento ai miei passati studi giuridici, è un concetto assolutamente espunto fuori da tutti gli ordinamenti giuridici moderni, ma lo possono espungere fuori quanto vogliono, ma non si può discutere una cosa di questo genere, d'accordo? Perché la legge naturale non è altro che ciò che tu, che ogni uomo, come dire, aperto e disponibile al ragionamento e all'osservazione serena di fatti, situazioni e fenomeni, può cogliere. Cioè, se uno guarda semplicemente l'uomo e la donna, così come sono fatti, perdonatemi, a livello anatomico, capisce subito che l'uomo e la donna sono naturalmente fatti l'uno per l'altro. Punto. E sono, attenzione, fatti naturalmente l'uno per l'altro in un certo modo, non in altri modi strani. Questo prima che andare a fare tutto il discorso su, abbiamo visto il Nuovo Testamento, la fornicazione, l'impurità, eccetera, eccetera. Se tu stai attento e quindi non opti per un tipo di scelta che sia assecondamento dei miei impulsi, ricordate, le passioni, quindi siccome queste sono cose piacevoli e gradevoli e a me piacciono, io gli sto dietro, punto e basta, come siano, siano. D'accordo? Ecco, se tu stai dietro a questo, è ovvio che è inutile che uno ragiona con te, perché hai già scelto di non voler ragionare. Però se tu sei una persona che cerca sinceramente il bene e la verità e ti metti seduto con calma e guardi, osservi. Questa è scienza galileiana al massimo grado. Ricordate cosa diceva Galileo Galilei? Da dove nasce la scienza? Prima cosa, dall'osservazione dei fenomeni. Perché per scoprire la legge di gravità devi guardare con estrema attenzione cosa succede quando un corpo grave, tu lo lasci e cade per terra. Quindi guarda, come mai che tutti fanno così? Come mai che tu ci sarà un motivo? C'è sta una forza che li muove? È calcolabile questa forza? E poi buon Newton ha scoperto la legge di gravitazione universale, ma la legge di gravitazione universale per certi aspetti è una legge assolutamente naturale, con la limitazione, insomma, che è una legge naturale valida sul pianeta Terra, insomma, perché già sulla Luna la legge di gravitazione universale non funziona più perché non c'è più l'atmosfera. Adesso non facciamo questi, però questi discorsi, no? Però capite che anche questo nasce dall'osservazione. D'accordo? Io non posso pensare che un asino vola oppure che sul pianeta Terra ci si muove come si muove sulla Luna, che la forza di gravità non c'è, quindi si aleggia a mezz'aria e si fanno i salti lunari, no? Ricordate la prima volta che gli uomini sono andati sulla Terra? Non è così. Ecco, se dicessi il contrario sarei matto, sarei, perché starei dicendo una cosa che non è fondata sulla realtà constatabile semplicemente guardando. Questo è il concetto classico di legge naturale. Allora, tu studiati come ha fatto un uomo, studiati come ha fatto una donna, osserva come nasce una vita, quindi capite il ragionare. A cosa serve il diventare una cosa sola? Serve soltanto a godere? O serve anche a qualcos'altro? D'accordo? Sarà un caso che i bambini nascano proprio da questo o c'è qualche altra motivazione? Questo lo dico perché se magari in ascolto ci fossero anche, come auspico, delle persone che ci avessero magari dei dubbi di fede, allora la nostra intelligenza, se ben adoperata, sottolineo, può e deve essere un aiuto per tutti noi. Può e deve. Quindi, terza categoria, eh? quei comportamenti che costituiscono delle aberrazioni, quindi delle forme di allontanamento dalla legge naturale, quindi degli usi della sessualità che si capisce che tendono a distogliere questa dimensione della vita umana dal fine a cui è rivolta semplicemente osservando ciò che accade nella natura delle cose. Ultimo aspetto, ci sono delle vere e proprie profanazioni che colpiscono la santità del corpo umano in quanto tale. La santità e il rispetto e la decenza dovute al corpo umano in quanto tale. Ecco, noi oggi siamo arrivati a un grado alto di corruzione dei costumi, alto. Mi sembra che ancora non siamo arrivati fino al punto di perdita totale di senno, che se io che sono un prete andassi in giro nudo, tutti quanti direbbero questa è una cosa normale. Spero che non siamo arrivati a questo livello, no? Scusa, ma perché? Cosa c'è di strano? Se io vado in giro nudo sono esattamente come così mi ha fatto nostro Signore, di cosa ci sta di strano? Ecco, uno potrebbe, un matto, andare a fare un discorso di questo genere, no? E sarebbe senz'altro una profanazione della santità del corpo umano e del rispetto, insomma, anche dovuto, no? Non lo so, pensiamo se adesso mi vengo degli esempi un po' paradossali, se il Presidente della Repubblica andasse al Quirinale, non lo so, in scarpe da mare, in pantaloncini corti e in canottiera. Non è una cosa, cioè, chi lo vede, non è che uno fa il formalista, cioè, non è adatto, no, una cosa di questo genere. È un esempio per far comprendere, insomma. E come dire, come anche nei confronti del nostro corpo, anche al di fuori di questa materia, dobbiamo comunque osservare dei comportamenti che consentano un certo decoro e una certa forma esteriore di rispetto del nostro corpo. E così vedremo che ci sono anche degli atti impuri che ledono, che sono tali proprio perché trasgrediscono questa forma essenziale di rispetto della santità del corpo umano, di cui parlava San Paolo, questo abbiamo visto nella precedente conversazione, nella prima lettera ai Corinzi. Ricordatevi che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo e che siete membra di Cristo e che non si può profanare il corpo proprio perché per questa sua intrinseca santità dovuta alla presenza della grazia in noi. Detto questo, quindi cominciamo dal primo gruppo di peccati impuri, quindi quelli che rientrano negli atti direttamente contrario alla santità del matrimonio. Vi elenco prima quali sono e poi ne parliamo insieme. Sono l'adulterio, anzitutto, il divorzio, le unioni civili, quindi i matrimoni tra battezzati chiaramente, celebrati solo davanti all'autorità umana, le libere convivenze. Oggi ormai in continua, tendenziale, vertiginosa e apparentemente inarrestabile ascesa, nonché i rapporti prematrimoniali. Parlare di ascesa dei rapporti prematrimoniali è quasi una sorta di presa in giro, perché oggi potremmo dire che, ahimè, chi si astiene per motivazioni di fedeltà alla legge di Dio, da incontri ravvicinati del primo, del secondo, del terzo tipo, precoci, spesso e volentieri viene considerato una sorta di mosca bianca oppure necessariamente caratterizzato da qualche strana malattia, qualche strano compresso, qualche strana forma di una sorta di minorità mentale, psichica o di altro, insomma, no? Va bene, poi ne parleremo. Allora, il matrimonio è anzitutto un vero sacramento, ragazzi, istituito da Cristo per sigillare e santificare con la benedizione di Dio Il patto coniugale, che è fondato, concetto di prima, nella legge di natura, quindi non è che il matrimonio è stato un sacramento, come dire, come l'Eucaristia, no? Quindi che introduceva qualcosa di assolutamente nuovo e mai visto all'interno del consorzio umano. Il sacramento si poggia su una realtà che in qualche modo la precedeva, perché il matrimonio si fonda sulla legge di natura. Però lo eleva, perché santifica con la benedizione di Dio il patto coniugale tra un uomo e una donna, con cui essi liberamente si donano l'uno all'altro in maniera totale e indissolubile, e che li vincola all'assoluta fedeltà e l'indissolubilità fino alla morte di uno dei due. Tenete presente che l'adulterio, fino a tempi non troppo lontani da noi, io rimasi molto sorpreso, essendo figlio, diciamo, degli anni 70 e 80, quando studiando diritto penale constatai questa cosa, era un reato nel codice penale italiano. Era un reato. Se aprite un codice penale, voi sapete che i reati che sono stati abrogati, quindi che un tempo erano reati e ora non lo sono più, c'è ancora l'articoletto nel codice penale con sotto la dizione, guardate che questo reato è stato abrogato dalla legge X dell'anno Y. Quindi era un reato anche per lo Stato, e non mi si venga a dire che era un reato anche per lo Stato semplicemente per il fatto che prima lo Stato era confessionale, quindi siccome questa è una cosa grave per la Chiesa, e se lo Stato era confessionale, la religione cattolica era religione di Stato, e quindi era stato messo il reato di adulterio. Io non lo so se è tanto vero una cosa di questo genere, perché comunque sia, l'adulterio è un affronto gravissimo al prossimo. Questo non. Ci pensiamo mai? L'adulterio è un affronto gravissimo alla dignità del prossimo. Scusate, no? C'è il reato di percosse? Cioè, se un pazzo, se un uomo mazza di botte la moglie, da sempre poteva essere denunciato per maltrattamenti, cose giustissime. Scusate, ma l'aver subito un adulterio, quindi una sofferenza morale di questo genere, enorme, grandissima. Non dovrebbe essere, cioè dovrebbe essere una cosa, diciamo, questa è una cosa minore. Minore. Non lo so, forse sarebbe il caso di fare un sondaggio, no? Dice, guarda, dovendo scegliere tra queste due forme di male, tu che cosa preferiresti? Che ti fosse dato uno schiaffo o che fossi tradito da tua moglie o da tuo marito? Proviamo a chiederlo, proviamo, no? Io se dovessi essere sposato, io ci penserei prima di rispondere, perché certamente non è cosa gradevole ricevere uno schiaffo, ma è cosa sommamente sgradevole ricevere, subire un adulterio. Quindi chi l'ha detto che questa fattispecie era reato perché bisognava tenere le gonne agli uomini di chiesa e andare appresso pedissequamente con lo stato confessionale? Ma chi l'ha detto questo qui? Chi lo ha detto? E perché questa cosa oggi, quando anche nel matrimonio civile ci si obbliga, almeno fino a quando dura il matrimonio civile, alla fedeltà, deve essere completamente indifferente alla legge dello Stato? Perché? Io sto facendo semplicemente delle considerazioni umane adesso, un po' polemiche verso chi dice che queste cose sono retaggi di una cultura, ma perché? Perché? Perché anche nelle forme di matrimonio civile, ripeto, quelle riconosciute e celebrate nei comuni, c'è la fedeltà. Io rileggo gli articoli del codice civile agli sposi, che comunque quando si sposano in chiesa con il matrimonio concordatario, e c'è l'obbligo della fedeltà, dell'assistenza reciproca, quindi c'è. Quindi era un reato anche nel codice penale, uno, ed è stato abrogato. Per quanto mi riguarda non si capisce bene in base a che e in base a che cosa, se non ad un'operazione, bah, non molto comprensibile, diciamo così. Per quanto poi riguarda la disciplina ecclesiastica, questo peccato tradizionalmente era ritenuto gravissimo, ma ripeto gravissimo, Tant'è vero che nella Sacra Scrittura, se voi, per esempio, aprite il libro del profeta Osea, Il profeta Osea descrive i peccati di infedeltà del popolo di Dio nei confronti di Yahweh come un adulterio perpetuo. Ed è una cosa gravissima, perché l'adulterio era venire meno a un patto di fedeltà e di alleanza simile a quello sigillato tra Dio e il suo popolo. Quindi se tu sei un adultero, sei come un grande peccatore che disprezza la legge di Dio. Diciamo così, fuori di metafora. Attenzione che alcuni autori, questo lo racconto sempre, nei primi secoli del cristianesimo, quando la disciplina del sacramento della penitenza era molto diversa rispetto a quella attuale, perché ci si confessava solo una volta durante la vita, con una forma, diciamo così, di amministrazione del sacramento molto complessa, pubblica, che interessava la comunità, però per alcune forme di peccato gravissimo, tra cui l'adulterio, c'era anche lui. Guardate che c'era più di qualche autore che diceva: cioè, l'unica cosa è che uno faccia penitenza per tutta la vita e si rimetta nella misericordia di Dio. Ecco, ma è una cosa talmente grave che prima di essere rimessa devi sperare che te la rimetta il Padre Eterno con la penitenza fatta per tutta la vita. Tra cui c'era l'adulterio, eh. Quindi pensate a quanto era grave questo peccato. Ora, da un punto di vista morale, questa intrinseca gravità rimane, tanto è vero, attenzione all'uso che si fa di queste cose, che se uno apre il codice di diritto canonico, voi sapete che il matrimonio cattolico è assolutamente indissolubile, quindi il divorzio non esiste, però ci possono essere delle circostanze in cui a volte è lecito, altre volte addirittura consigliabile, come dire, interrompere momentaneamente sempre la coabitazione. Sono due le fattispecie previste: una è l'adulterio e l'altra è il caso in cui uno dei due coniugi renda assolutamente impossibile o metta a repentaglio alla vita di qualcuno, insomma, quindi crei delle condizioni di convivenza assolutamente al fulmicotone. Nel codice di diritto canonico c'è scritto che quantunque la Chiesa esorti e auspichi il coniuge innocente a perdonare la sua comparte adultera, se non ce la fa, può pro tempore, quindi in attesa che gli si calmi, che gli si sani la ferita profonda inferta da questo comportamento al matrimonio, lecitamente interrompere la convivenza. Non è consigliabile, però che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Chiesa, la Santa Madre Chiesa, per chi pensa che non dovesse esserla, è consapevole, cioè che se tu non hai questo eroismo di saper superare un trauma del genere e hai bisogno di tempo, te lo prendi. Perché è una cosa gravissima, gravissima. Ecco. Quindi non è un diversivo o una cosa da nulla, ho fatto la scappatella. Io, guardate, io non vedo la televisione se non qualche, che c'ho altro a cui pensare, se non qualche notiziario o cose di questo genere. Ma qui tra telenovelas, soap opera, film e telefilm di vario genere, oggi l'adulterio è assolutamente propagandato come variante assolutamente normale e come comportamento assolutamente tollerabile all'interno di qualunque forma di contesto sociale. Ma chi l'ha detto questo? Come chi l'ha detto questo qui? Cioè, per essere assolto dal peccato di adulterio, tu devi pentiti, devi, eh. Cioè, quando ti vengono a confessare il peccato di adulterio, il penitente deve essere realmente pentito. Pentito vuol dire che tu con quella persona ci chiudi completamente. Non la devi più neanche vedere, manco scritta al muro. D'accordo? Niente SMS, niente mail, niente telefonate, zero. D'accordo? Zero. E tra l'altro, proprio in considerazione di questa grandissima, qui vi parlo da sacerdote, cioè se Dio non voglia uno fosse caduto in adulterio, Dio non voglia, d'accordo? L'unica cosa da fare è andarsi a confessare, Perché riferire questa cosa al coniuge innocente può essere pericoloso, capite bene il senso in cui lo sto dicendo? Se quello a quello non lo sa, proprio perché essendo una botta così grande, puoi mettere a repentaglio la stabilità del matrimonio. Quindi dice, come mi ripresento se sono pentito? Fallo tu la penitenza, io dico sempre, falla tu, non farla fare a quel poveraccio o a quella poveraccia che confida in te e che si pensa chissà che o chissà che cosa e che tu la sbatti in faccia, gli sbatti in faccia il fatto che sei stato con un altro oppure con un'altra. Non è assolutamente, a mio modestissimo parere, opportuno. E parlo perché ho già avuto modo di constatare l'estrema pericolosità di un atteggiamento di questo genere. A volte è mosso da buone intenzioni, cioè, mi sono pentito, non mi riesco più a presentare davanti alla persona che amo, glielo devo dire in modo tale che mi libero di questa cosa. Aspetta però, aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo, perché può essere estremamente pericoloso. E quindi dopo aver fatto un guaio, ne facciamo un altro, ancora più grave, perché poi quel poraccio, quella poraccia, se non ce la fa, cosa deve fare? Che fa? Io consiglio a tutti quanti, così oggi finiamo, la visione di un bellissimo film. Sapete che io guardo poca televisione, ma per ovvie motivazioni, sapendo anche, e qui sicuramente le nostre care amiche suore saranno d'accordo con noi, anche i frati l'anno scorso hanno prodotto un film, la portata è estremamente comunicativa dei moderni mezzi di comunicazione. Passo un po' del mio tempo ad andare alla ricerca di qualche film o di qualche che ce ne sono, che sia sommamente formativo. Uno è Fireproof, prova di fuoco. Un film molto bello, fatto da americani, cristiani, per la verità non cattolici, ma con una fede, a mio avviso, molto più grande di molti sedicenti cattolici o pseudo-cattolici, che narra praticamente come un comportamento distruttivo sotto questo punto di vista. Pensate che il protagonista non era un adultero, diciamo così, reale, era stato sorpreso dalla moglie ad andare a vedere video pornografici su internet. E insieme ad altre cose, sfilacciamenti del matrimonio, questa era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. E tale era l'umiliazione che sentiva la moglie, diceva: ma questo che va a cercare al di fuori di me in giro, che aveva messo a totale repentaglio il matrimonio che stava finendo. E poi questo matrimonio, attraverso i consigli saggi di alcune persone, viene poi salvato attraverso il rientro in sé di quest'uomo e miracolosamente. Però questo fa comprendere come non, addirittura neanche l'adulterio consumato, ma anche l'adulterio, come dire, l'adulterio mentale, l'adulterio consumato attraverso la ricerca morbosa anche con gli occhi di soddisfazioni alternative, diciamo così, ai sensi, distrugge la dignità di una persona una volta che viene scoperta. Questo dice: ma io che c'ho? Perché questo deve andare a cercare altro? Chi è questo qui? È un pervertito? Oppure sicuramente una persona a cui io non, in qualche modo non basto più e che comunque anziché essere tutto mio, tutta mia, va in giro cercando altro. Quindi mi raccomando, siamo forti, non prendiamo troppo alla leggera, diciamo così, sedotti dalle mode attuali questo grave peccato, perché grave era e grave rimane. Ci fermiamo qui. Ragazzi e ragazze carissimi, vi do appuntamento se volete a martedì prossimo per proseguire nella nostra rassegna dei peccati impuri, quindi andando avanti su questo primo gruppo dei peccati che minano direttamente la santità e la sacralità del matrimonio. Do la mia benedizione a tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Una santa settimana. Ave Maria.